Capitolo 6. Una tempesta. E così, giorno dopo giorno, Mally diventava più Ariele, proprio come giorno dopo giorno Herr Sørensen diventava più prospero. E già la data della prima rappresentazione della tempesta era fissata per il 15 marzo a Kristiansand, quando un avvenimento inatteso e fatale sopraffece Herr Sørensen, Mally e l'intera compagnia teatrale. L'avvenimento fu così sensazionale che non solo diventò in ogni luogo l'unico argomento di conversazione, ma fu perfino stampato sulla prima pagina della Gazzetta di Kristiansand come segue: un'eroina. Durante il cattivo tempo che per tutta la settimana scorsa ha infierito lungo la costa, sulla nostra regione si è abbattuta una catastrofe che, secondo ogni umana previsione, avrebbe provocato la deplorevole perdita di vite umane, oltre che di un ottimo vapore costiero perfettamente atto alla navigazione. Ma all'ultimissimo momento, come per una grazia della provvidenza, più funeste conseguenze sono state felicemente scongiurate grazie al coraggio di un'animosa ragazzina. Presentiamo ai nostri lettori un breve resoconto del dramma. Mercoledì 12 marzo la nave passeggeri Sophie Øsevinkel salpò da Arendal diretta a Kristiansand. La visibilità era scarsa, c'era neve con forte vento di sud-est. Nel tardo pomeriggio il vento si tramutò in infortunale e, come tutti sanno, fummo assaliti dal peggior uragano che mai abbia a memoria d'uomo sconvolto la nostra costa. La Sophie Øsevinkel aveva a bordo 16 passeggeri, tra i quali era il noto e stimato capocomico Herr Valdemar Sørensen, con la sua compagnia, diretto a Kristiansand, dove avrebbe dovuto dare una rappresentazione. Il vapore era riuscito a proseguire difficoltosamente fino al Kvassefjord, quando l'uragano irruppe in tutta la sua veemenza. Esso fu costretto a fermarsi, ma fu tuttavia trascinato verso i banchi al largo di Ramsund, senza che fosse possibile a chi stava a bordo di toccar terra, dato il nevischio e dato che lo scafo era, da poppa a prua, continuamente sommerso dai marosi. Alle 8 della sera erano visibili a dritte a manca gli scogli sommersi contro i quali il mare infuriato si frangeva, con onde alte quanto una casa. La Sophie Øsevinkel ebbe tanta fortuna da scivolare sul banco più esterno in una zona di mare lievemente più calma, al riparo d'uno stretto isolotto, ma qui la nave andò a ficcarsi con la prua su una roccia sommersa e subito cominciò a imbarcare gran quantità d'acqua. Durante la tempesta, lo stesso capitano e due uomini dell'equipaggio erano rimasti infortunati e al nostro uomo riusciva difficile mantenere l'ordine a bordo. Una delle scialuppe di salvataggio era stata distrutta dalla furia del mare, ma i valorosi marinai riuscirono a calare l'altra che poteva contenere 20 persone. I passeggeri, con tanti uomini dell'equipaggio quanti ne erano necessari per manovrare la barca, presero posto a sedere, per remare fino all'isola. Soltanto una ragazza di 19 anni, Mamsel Ross, che faceva parte della compagnia teatrale di Herr Sørensen, comunicò la sua decisione di restare a bordo, rinunciando, con nobile coraggio femminile, al suo posto nella scialuppa a favore di uno dei marinai infortunati. Fu deciso che il nostr'uomo sarebbe tornato alla nave per caricare sulla scialuppa chi era rimasto a bordo, ma durante lo sbarco sull'isola la fragile imbarcazione andò totalmente distrutta. Le persone che vi erano state caricate riuscirono a sbarcare sane e salve, ma fu impossibile ristabilire il contatto col vapore che dall'isola era visibile solo a tratti tra nevischio e schiuma. Poco dopo, a coloro che stavano sull'isola, fu evidente che il mare l'aveva sollevato dal suo letto roccioso e si poté soltanto prevedere che la sua ultima ora era giunta. Anche a bordo si resero chiaramente conto dell'imminente pericolo che la nave si riempisse d'acqua e andasse rapidamente a fondo. I 10 uomini di equipaggio, che non si erano ancora messi in salvo, erano stati colti dal panico ed erano sul punto di rinunciare alla lotta con gli elementi. Come ultima possibilità di salvezza, pensarono di lasciare che il vento trascinasse la Sophie Øsevinkel il più vicino possibile alla riva. Data la fittissima oscurità, questa soluzione avrebbe provocato la perdita totale della nave. Fu a questo punto che Mamsel Ross, come ispirata da più alti poteri, unica donna sulla nave che naufragava, riuscì, con la sola fermezza dell'animo suo, a infondere coraggio nel cuore dell'equipaggio. La giovinetta scese anzitutto dai fuochisti e persuase il loro capo a far funzionare le caldaie nuovamente a tutto vapore. Lei stessa si prodigò nella pericolosa impresa di rimettere in moto le pompe, indi, ottenuto ciò, rimase instancabile per tutta la notte, al fianco dei timonieri che si avvicendavano alla guardia, mentre la nave era ferma sotto la furia dei marosi e affondava ad ogni ora di più. È comprensibile che l'indomito spirito di una fanciulla possa prevalere nell'ora del bisogno su marinai in lotte e rafforzarli, ma per quanto bello è inaudito che una giovane donna inesperta di vita marinara possa disporre di una forza tanto grande. A questo punto bisogna citare, come degno di riconoscimento, un giovane marinaio, Ferdinand Skyret. Fin dal primo momento rimase spalla a spalla con la signorina Ross ed eseguì ogni suo ordine durante tutta quella notte di tempesta. Spesso, nel fragore della burrasca, si udì la voce di lei che chiamava forte il suo nome. Verso le prime ore di giovedì 13, l'uragano si placò lievemente. Sul far del giorno fu possibile portare la Sophie Hösewinkel dentro il fiordo di Kristiansand e farla incagliare prima che affondasse presso l'isola Odder, da dove il vapore potrà ora essere recuperato da riva senza difficoltà. Nel momento in cui questo giornale va in macchina, il proprietario del vapore, nostro egregio concittadino Jochum Hösewinkel, non meno delle mogli e delle madri dei nostri buoni marinai, ringrazia dal profondo del cuore, subito dopo Dio, l'eroica fanciulla che ha salvato la nave. Capitolo 7. Ricompensa per il coraggio. Durante la notte di tempesta descritta nella Gazzetta di Kristiansand, le luci erano accese in tutte le stanze del primo piano della bella casa di legno tinta di giallo che dava sulla piazza del mercato ed era la dimora dell'armatore Jochum Hösewinkel. L'armatore stesso andava su e giù per le stanze, si fermava, ascoltava la burrasca e riprendeva a camminare. Pensava alle navi che quella notte aveva sul mare, soprattutto alla Sophie Hösewinkel salpata da Arendal. La nave portava il nome di una sua sorella prediletta, morta tanto tempo prima, a soli 19 anni. Verso mattina s'addormentò sul rigido seggiolone che era vicino alla tavola e quando si svegliò si convinse che la nave fosse andata a fondo e fosse perduta. In quel momento suo figlio Arndt, che abitava in un'ala laterale della casa, arrivò dritto dal porto, coi capelli e il pastrano bianchi di neve, ad annunciare al padre che la Sophie Hösewinkel era salva davanti all'isola Odder. Un pescatore aveva portato la notizia sul far del giorno. Jochum Hösewinkel posò la testa sulle mani che teneva intrecciate sulla tavola e si mise a piangere. Poi Arndt raccontò come era stata salvata la nave. Allora la gioia del vecchio armatore fu così grande che dovette comunicare l'avvenimento al mondo degli armatori. Prese per un braccio il figlio e andò con lui fino al porto e dal porto in giro per la città. La notizia fu accolta ovunque con stupore e con gioia. I particolari furono ripetuti tutti di bocca in bocca e più di un bicchiere fu vuotato al recupero della nave e alla salute di Mamsel Ross. Jochum Hösewinkel, dopo quella terribile notte senza fine, si sentiva leggero di cuore e di testa come non lo era mai stato da tanti anni. Mandò a dire a casa, a sua moglie, che quando quella nobile ragazza fosse arrivata in città, l'avrebbero ospitata in casa loro e che doveva tenere pronta per lei la camera che una volta era stata di Sophie. Quando nel tardo pomeriggio entrò in porto la nave da pesca che portava in città i naufraghi dall'isola Odder, mezza Kristiansand era presente. Tutti salutavano con espressioni di letizia l'armatore, ma una circostanza particolare, una tradizione o leggenda propria della famiglia di Jochum Hösewinkel, diede a quei saluti un tono quasi di devozione. La sera era cruda e agitata. Aveva smesso di nevicare, il cielo era buio e soltanto l'orizzonte era illuminato da uno sprazzo di luce. Quando calò il sole, uno strano bagliore color rame piombò sulle acque profondamente mosse e i molti visi che erano sul molo ne avamparono. La barca fu accolta dall'acclamazione che una nazione di marinai accorda solo agli eroi del mare. Tutti gli occhi cercavano lei, la fanciulla che aveva salvato la Sophie Hösewinkel, quella che nella loro immaginazione aveva assunto le sembianze di un angelo. Non la trovarono subito, perché si era tolta le vesti fradici, aveva indossato il maglione, i pantaloni e gli stivali di gomma di un pescatore. e in quell'equipaggiamento troppo grande per lei assomigliava a un mozzo. Per alcuni secondi, delusione e ansia serpeggiarono tra la folla, ma un omone tarchiato che era sulla barca sollevò la ragazza e gridò a quelli che stavano a terra: «Eccovi un tesoro!» Nell'istante in cui l'angelo si rivelò simile a un giovane marinaio, a uno dei loro, 100 cuori si fusero in un cuore solo. Un immenso grido di gioia esplose da ogni parte. Si videro sventolare berretti e tutti i presenti lanciarono risate verso la barca. Ma ve n'erano molti che, allo stesso tempo, piangevano. Il cappuccio di incerata le era caduto mentre la sollevavano tra le braccia, e i suoi capelli sciolti e ricciuti per l'acqua salata e la neve apparvero dietro al capo di lei, nel sole del crepuscolo, come un alone. Era malferma sulle gambe e un giovanotto la prese fra le braccia e la portò a terra. Era Arndt Hösewinkel. Mally lo fissò in viso e pensò di non aver mai veduto un volto umano di tanta bellezza. Egli guardò il suo. Era pallidissimo, con gli occhi cerchiati di nero e la bocca tremante. Sentì il suo corpo sotto quelle vesti rigide, poggiato contro al proprio, e un boccolo dei suoi capelli gli si infilò tra le labbra e sapeva di sale. Era come se il mare stesso l'avesse gettata nel suo abbraccio. Per un momento ella non si rese conto che cosa significasse la gran massa nera che le stava di fronte, e i suoi occhi chiari e spalancati cercarono quelli di Arndt. Un attimo dopo udì gridare il proprio nome e l'aria ne vibrò tutta. Allora, nella profonda ondata di sangue che le salì al viso, nell'ampia occhiata che tutta stordita lanciò attorno a sé, e in un gesto solo, ella si arrese totalmente alla folla che la circondava e fu felice, ebbra di gioia come la folla stessa. Ard aveva il suo viso radioso accanto al proprio e le dette un bacio. I presenti fecero largo al vecchio armatore che, a capo scoperto e con voce forte e intensamente commossa, rivolse alcune parole alla ragazza e all'assemblea. Ard, ridendo, la protesse dall'abbraccio che tutta Kristiansand le avrebbe dato. Quando capì che il padrone della nave salvata portava la ragazza a casa propria, la folla accompagnò lei e il suo ospite fino alla porta di casa, acclamandoli. Il giovane marinaio Ferdinand, che nel pensiero degli acclamatori stava a fianco della ragazza come un eroe del gran dramma, a lieto fine, aveva casa in città con la madre vedova e vi fu portato a spalle, in trionfo. Un poco più tardi, quella stessa sera, arrivarono gli altri naufraghi, quelli che erano stati portati sani e salvi sull'isola, e il popolo ebbe occasione di tener viva la sua esultanza. Herr Sørensen, con la rapidità di un fulmine, intuì la sua nuova posizione. Non pensava più alle proprie sofferenze, ma brillava nel riflesso della gloria della sua giovane alunna, e l'atteggiamento possente e autoritario che gli era proprio confermava che l'aveva creata lui e che ella era sua. Salvo questo, nulla gli era veramente chiaro, e tantomeno ciò che accadeva su e giù per il mondo che lo circondava. Nel corso di quella giornata era diventato molto rauco, poi perse completamente la voce e trascorse i primi giorni dopo il naufragio in silenzio assoluto, con la gola avvolta da numerose sciarpe di lana. In città s'era sparsa la voce che durante la tempesta, al pensiero del pericolo corso da Mamsel Ross, i suoi capelli erano diventati bianchi. La verità era che la sua parrucca castana era volata dalla scialuppa a mulinello sulle onde. Sopportò quella perdita con calma altera e regale, conscio che in cambio di un bene temporale egli aveva acquistato un'esperienza eterna e anche che avrebbe potuto sostituire la parrucca perduta appena la sua vecchia borsa da viaggio fosse stata portata a riva. Anche gli altri membri della compagnia teatrale non tardarono a venire a terra, pallidi e quasi allucinati, ma tutti orgogliosi, imperterriti. Sulla barca, Mamsel Helen lasciò che i lunghi capelli neri la avvolgessero come un mantello. Il giovane biondo primattore della compagnia, all'indomani del salvataggio, scrisse un'ode al vento del nord, che fu pubblicata dal giornale locale, e i lettori, più al corrente di lui in fatto di maltempo, intesero che un poeta non può insieme essere esperto nel verseggiare e nel leggere la bussola. Le rappresentazioni teatrali dovettero essere temporaneamente rimandate, ma durante la settimana alcuni degli attori le anticiparono presentando degli estratti del loro programma nel piccolo salone dell'albergo Hamonien. Il proprietario dell'albergo, date le circostanze particolarmente commoventi, fu tanto magnanimo da consentire alla compagnia di alloggiare a prezzi ridotti. E quando fu noto che a bordo della Sophie Hösewinkel costumi e scenari erano stati danneggiati dall'acqua salata, fu fatta una colletta a beneficio di chi ne aveva sofferto. Il risultato fu soddisfacente e Herr Sørensen, muto e costretto a letto, rifletté sull'encomio che il pubblico attribuiva agli sforzi compiuti da un artista, rispettivamente nell'arte e nella vita. La maestosa dimora della piazza del mercato aveva aperto le sue porte a malli e le aveva richiuse dietro a lei in segno di generosa e sentita gratitudine verso la solitaria fanciulla, che aveva rischiato la vita per una delle navi di quella casa. Tra le persone che vivono del mare e sul mare, la realtà e la fantasia sono stranamente intessute. Durante i primi giorni, che seguirono all'arrivo della ragazza, i visi di coloro che abitavano in quella sua stessa casa esprimevano, guardandola, una specie di timore reverenziale. Non capivano se il mare, forza suprema sempre presente e sempre imperscrutabile, aveva o no lasciato la sua presa. Uno dei cavalloni più vicini, che lanciavano in alto la nave giù nel porto, non l'avrebbe forse risucchiata, cosicché, andando nella sua stanza, l'avrebbero trovata vuota, segnata da una buia striscia d'acqua di mare e di alghe sul pavimento, simile a quelle che si lasciano dietro gli spiriti del mare? Ma dopo alcuni giorni, la casa cominciò, tuttavia, a sentirsi più sicura di quella sua presenza. E allora ella diventò un simbolo sia della nave Sophie Hösewinkel, che era stata sul punto di inabissarsi nel mare, sia della giovane Sophie Hösewinkel in persona, che una volta era fiorita in quelle stesse stanze. Mai in vita sua Mally era stata in una casa così bella. Osservava i lampadari di cristallo che pendevano dai soffitti, le tende di merletto, i ritratti di famiglia incorniciati d'oro alle pareti e sui cassettoni di legno di canfora, e sentiva di dover riverire ogni cosa. E in quella casa ella era tenuta in gran riguardo, le era servito a letto caffè con focacce e sul suo lavabo c'era del sapone profumato alla violetta. Era ancora timida e non aveva molto da dire. Della sua gran prodezza riferiva soltanto ciò che doveva tirar fuori in risposta alle domande degli altri, ma era felice, camminava, sorrideva tra i sorrisi. Sentiva che la casa, il giorno dopo il suo arrivo, si era stupita vedendo che era bella. Vi era entrata col viso pallido e sporco e con gli abiti rozzi, ma nel suo abbraccio diventava, come lei stessa vedeva guardandosi allo specchio, più bella ogni giorno. La casa sorrideva anche di questo fatto, dell'averla, cioè, creduta brutta, mentre in realtà era una splendida ragazza. E così Mally, con l'approvazione della stessa casa, fece un passetto avanti e si guardò attorno tra le persone che vi abitavano. Si sentiva più a suo agio in compagnia del vecchio armatore. Forse pensava di aver desiderato per tanto tempo un padre che ora questo le faceva preferire la compagnia degli uomini. E lei stessa sentiva che con lo sguardo, l'atteggiamento e la voce aveva molto da offrire ad essi. Era più timida nei confronti della padrona di casa. La signora Hösewinkel era una signora imponente, vestita di seta nera, con una lunga catena d'oro per reggere l'orologio che le pendeva sul petto. Aveva il viso bianco e rosa, grande e delicato, e Mally pensava che somigliasse alla regina Tora di Axel e Valborg. La signora Hösewinkel parlava poco, ma la regina Tora nella tragedia ha una battuta sola rivolta al figlio: possa Dio perdonarti. Eppure, in pubblico, sa che è gentile e maestosa e augura del bene ai personaggi nobili. Di Arnd, il figlio di casa, Mally sapeva o pensava soltanto che quando egli l'aveva sollevata per farla sbarcare, il suo viso era stato mirabilmente bello. Capitolo 8. La casa in piazza del mercato. Joachim Hösewinkel e sua moglie erano timorati di Dio. La loro casa era la più dignitosa della città e la più caritatevole verso i poveri. S'erano sposati da giovani e avevano sempre vissuto felici, ma per molto tempo il loro matrimonio era stato sterile. Nella famiglia Hösewinkel era tradizione che, mentre si rendeva omaggio alla provvidenza in chiesa la domenica e nelle quotidiane preghiere del mattino e della sera, non si mettevano avanti petizioni personali. I due coniugi avevano portato se stessi e il loro desiderio a conoscenza dell'Onnipotente solo grazie a una vita giusta e severa. Il loro silenzio nascondeva una piccola domanda conturbante. L'Onnipotente non oscurava in questo modo la propria luce? 18 anni dopo le nozze, la loro inespressa preghiera fu udita e il loro figliolo venne al mondo. Allora si sentirono liberi di dimostrare apertamente la loro riconoscenza. Al battesimo del bambino furono fatte grandi elargizioni che portavano il nome di Arda Jochumsen Hösewinkel. Da quel momento in poi la casa profuse una generosa ospitalità. Ma l'armatore e sua moglie, col passare degli anni, cominciarono a provare un certo disagio di fronte alla loro buona sorte. Il loro figliolo fu, fin dalla più tenera età, di una bellezza tanto radiosa che la gente si fermava, ammutolendo quando lo vedeva. Crescendo si faceva intelligente, svelto, ad imparare, nobile e ardito più degli altri ragazzi. Quando da giovanotto fu mandato a Lubecca e ad Amsterdam a far pratica tra quegli armatori, la sua chiarezza di vedute, i suoi modi gradevoli e la sua rettitudine gli procacciarono la fiducia e l'affetto dei superiori. A 21 anni diventò socio di suo padre nella compagnia e diede prova di intendersi di navi e di navigazione. Ogni cosa alla quale gli mettesse mano dava ottimi risultati e marinai e impiegati erano felici di servirlo. Aveva una particolare passione per la musica e suonava e cantava bene egli stesso. Negli ultimi anni una strana ombra velava ogni tanto la felicità dei suoi genitori. Sembrava che Arda Hösewinkel non avesse intenzione di prendere moglie. In famiglia molti erano morti giovani e scapoli, come se fossero stati troppo buoni e belli per mescolare la propria natura con la natura del mondo. Sarebbe accaduto lo stesso nei confronti dell'ultimo dilettissimo figlio che tanto aveva tardato a venire alla luce. I vecchi, tuttavia, non si dovevano preoccupare più del necessario. Dopotutto, il loro figliolo era uomo d'onore, retto e cavalleresco con tutte le fanciulle di Kristiansand e poteva scegliere tra queste quando voleva. Tutti coloro che osservavano Ard Hösewinkel lasciavano con inconsapevole e profonda gioia che i loro occhi si posassero sulla bellezza, sulla potenza e sul fascino del suo corpo, sulla notevole perfezione dei suoi lineamenti, sulla particolare espressione del suo volto, che era allo stesso tempo schietto e pensoso. E pensavano che quel giovanotto di Kristiansand avesse ricevuto fin dalla culla tutto ciò che un essere umano può desiderare e quasi più di quanto sia facilmente tollerabile. Aveva ricevuto anche più di quanto pensassero i suoi genitori, aveva una natura ricettiva e riflessiva e aveva fatto le sue proprie esperienze. Arne aveva 15 anni quando i suoi genitori avevano assunto al loro servizio la figlia di un pescatore di Vatne, una certa Guro. Era di un anno maggiore del figlio di casa, ma il bel ragazzo, che per la propria ricchezza e per l'ammirazione del popolo aveva il capo circondato come da un alone, destò nel cuore di quella fanciulla quasi selvaggia un turbamento potente e irresistibile. Ella fu incapace di nascondergli la passione che nutriva per lui. E diventarono amanti, quasi senza saperlo. Egli era tanto giovane che non sentiva la colpa. In vita sua non aveva mai temuto, né avuto motivo di temere, che le cose alle quali tendeva per desiderio naturale potessero essere in conflitto con la nobiltà della condotta o del modo di pensare. Tra lui e Guro era sorta una dolcezza sconosciuta, un desiderio, e il gioco era tanto più delizioso perché era segreto. Si sorridevano, si volevano bene dal fondo del cuore. Del padre e della madre, se mai a quel tempo gli venivano in mente, il ragazzo pensava: «Oh, non capirebbero mai questa cosa». Erano tanto più vecchi di lui, e da quando li aveva conosciuti, essi avevano sempre opposto la loro ponderatezza al suo spirito e ai suoi propositi. Quasi non riusciva a rendersi conto che loro stessi avrebbero potuto una volta essere stati presi dallo stesso gioco. L'amore segreto in casa dell'armatore durò 6 settimane. Una notte di primavera, Guro buttò le braccia al collo del suo giovane amante e gridò, in un diluvio di lacrime, «Arn, sono perduta perché t'ho incontrato e t'ho guardato!» Il giorno dopo se ne andò, e 2 giorni dopo fu trovato il suo corpo, che galleggiava sul fiordo. Arn rivide Guro quando la portarono in casa, bianca, gelata, coi capelli e le vesti grondanti acqua salata. Il motivo del suo gesto fu presto noto. Guro era incinta. Per 3 giorni interi il ragazzo si credette il responsabile della sventura e della morte della ragazza, ma poi il padre e la madre di lei vennero in città a prenderne la salma e in casa si seppe che la ragazza era stata nei guai prima di entrarci. Aveva un innamorato Avatne che l'aveva abbandonata, ma che poi ci aveva ripensato e per 2 volte era stato in città a cercarle e a chiederle di sposarlo. Guro, però, non aveva più voluto avere niente a che fare con lui. Il padrone e la padrona di casa erano desolati per la vicenda cupa e dolorosa che s'era svolta sotto il loro tetto. Provavano ripugnanza a parlarne quando il loro giovane figliolo poteva udirli, ma sentivano che era inevitabile, che anzi era loro dovere dirgli la verità chiara e tonda, aggiungendo alcune parole solenni sul prezzo del peccato. La verità che Arna apprese dalle labbra di suo padre e di sua madre abolì la sua colpa, ma gli sembrò che, allo stesso tempo, abolisse ogni altra cosa, e a sua volta si trovò a mani vuote. Non gli era rimasto più nulla, salvo un'ansia che per molti giorni gli succhiò il cuore, e che non era tanto desiderio della ragazza o della felicità che la gli aveva portato, quanto della fiducia che gli aveva avuto in lei e in quella felicità. Una segreta ebbrezza gli si era rivelata e gli aveva provato di esistere veramente nella vita. E poi, subito dopo, si era smentita e aveva provato di non essere mai esistita. E le parole di addio di Guro gli suonavano negli orecchi come una fatale profezia, per cui era stata una sventura incontrare e guardare lui, anche per coloro ai quali egli voleva il maggior bene. «Sono perduta perché t'ho incontrato», aveva pianto, col volto bagnato di lacrime appoggiato al volto di lui. Questi avvenimenti gli avevano attraversato la vita nel corso di pochi mesi e senza che anima viva ne sapesse nulla. E allora, per lui, per il figliolo teneramente vegliato, fu come se egli avesse dovuto imparare in totale isolamento quasi tutte le esperienze che si devono pur affrontare in questo mondo. Tutto ciò era accaduto 12 anni prima. Da allora egli si era guardato attorno nel mondo e aveva avuto a che fare con molta gente in molte circostanze diverse. Aveva avuto amici in molti paesi, aveva conosciuto ragazze belle e fedeli, come la figlia del pescatore di Vatne. Non pensava più a lei e stentava a ricordare il primo motivo per cui aveva preferito tenersi un po' staccato dal prossimo, per il timore che alcuno dovesse perdersi, per colpa sua.